Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, nuova puntata di Focus Economia, nuova cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Allora, partiamo proprio dagli ultimi minuti. Come già il nostro Gerry vi ricordava, sta parlando il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e sta parlando in maniera molto molto netta e chiara. Allora, nell'ordine, l'ultimo flash che le agenzie hanno battuto riguarda una frase, poi vedremo di capirla meglio anche con chi è inviato da Radio 24 a seguire l'intervento di Mario Draghi alla riunione della Società Italiana degli Economisti. Il governatore della Banca d'Italia ha appena detto sulla crisi ci sono nuovi problemi all'orizzonte. Non vi posso aggiungere di più perché vedo solo questo flash di agenzia, non capiamo se siano nuovi problemi di carattere economico o relativi alla parte finanziaria. Comunque la frase non si presta a interpretazioni, nuovi problemi all'orizzonte. Poco prima, cioè qualche minuto fa, sempre il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi aveva detto, aveva difeso gli economisti e la disciplina economica dagli attacchi fatti dopo la crisi economica mondiale e ha detto le misure di risposta e di contenimento della crisi sono merito degli economisti, così come aver capito la dimensione e la natura di questa crisi. E ha così risposto a chi, e qui lo dico senza timore di essere smentito, il riferimento era quella frase famosa del ministro Giulio Tremonti che aveva detto insomma stiano zitti un anno, si era scagliato contro gli economisti, ha detto questa è la risposta a chi sogna pogrom di economisti, lo vedo virgolettato quindi è attribuito al governatore, e a chi ha aperto una caccia al colpevole. E quindi netta risposta anche ad alcune dichiarazioni del ministro Tremonti di qualche settimana fa. Noi oggi, oltre che darvi l'aggiornamento sull'intervento del governatore della Banca d'Italia, parleremo di questa proposta che è arrivata dal Presidente del Consiglio, ossia stiamo studiando il taglio dell'IRAP fino alla sua eventuale totale soppressione, e anche di questo cerchiamo di capire quanto sia annuncio e quanto sia invece lavoro già in corso. Poi il rapporto di Banca Intesa San Paolo assieme a Prometeia sul fatturato della nostra industria, è un rapporto in cui si parla di un futuro fragile, cioè a fronte di un calo del 16% del fatturato dell'industria quest'anno, la crescita nel 2009, nel 2010 e nel 2011 sarà dell'1,6% ogni anno. E se fosse così non ci vuole un genio per capire che ci metteremo anni a tornare ai livelli del 2007. Ancora parleremo del piano di investimento invece di un gruppo assicurativo francese molto grosso che è già presente da anni in Italia, mi riferisco a Groupama, azionista importante di riferimento anche di Mediobanca, oggi ha annunciato investimenti e rafforzamenti in Italia nei prossimi 3 anni. Ancora nella seconda ora del programma ci occuperemo da un lato delle esigenze dei piccoli industriali, domani si apre infatti da 2 giorni a Mantova organizzata dalla piccola industria di Confindustria proprio sulle necessità e i temi della piccola industria. E ne parleremo anche con chi, oltre che essere stato presidente della piccola industria nel passato, ha in questo momento la gestione dei confidi, quindi tutta quella parte di finanziamenti alle imprese che non passa dal credito bancario. Infine, se diciamo, il tempo ce lo permetterà, tratteremo anche alcuni aspetti di mercato, tra cui per esempio andamento di euro e petrolio. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, rapidamente le altre notizie in breve. Il petrolio apre in calo $80,7, in calo ma sempre altissimo. La borsa, giustamente, cosa sta facendo? Era già negativa, quindi non è peggiorata diciamo, dopo le parole del governatore, anche perché obiettivamente sono di alcuni minuti fa, però Milano è la peggiore adesso, -1,3%, Parigi -1,2%, Francoforte -1%, Londra -0,90%, l'America è positiva di uno 0,60%, giornata oggi divergente tra le due sponde dell'Atlantico, il titolo migliore CIR +1,6%, Finmeccanica +1,40%, Snam +0,90%, fronte opposto di nuovo forte il calo su Fondiaria Assai, -4,5%, Impregilo -3,20%, Intesa San Paolo meno 2,80, l'Automatica meno 2,6, Unicredit meno 2,3, Unipol meno 2,30, Banco Popolare meno 2,2. Immaginiamo realizzi sul settore bancario, quindi dopo la crescita di questi mesi e settimane, Pirelli più 2%, come Buzzi-Unicem l'1,80 lo guadagna Monte dei Paschi e Bulgari l'1,6 Mediolanum e Telecom Italia, l'1,5 il guadagno di Ubibanca, di Autogrill, di Luxottica e della il calo di Mediobanca, di Autogrill, di Luxottica e della Popolare di Milano. L'euro è sempre a quota 1,50 sul dollaro. Altra notizia dalla Cina: arriva e si conferma che dalla Cina arriva la ripresa, o quel poco di ripresa che vedremo anche noi. Il PIL cinese infatti è continuato a crescere anche nel terzo trimestre, con un aumento dell'8,9% rispetto al terzo trimestre 2008, per cui il tendenziale è 8,9% ed è in continua progressione, cioè nei primi tre mesi del 2009 ha fatto più 6 il PIL cinese, poi ha fatto più 8% nel secondo trimestre e adesso ha fatto più 9 praticamente per cento, e ormai è certo che la Cina crescerà dell'8%, almeno dell'8% nel 2009. Però in America invece i sussidi di disoccupazione sono aumentati in maniera brusca e contro ogni previsione, più 11.000 nella scorsa settimana i sussidi di disoccupazione, con analisti che invece si attendevano un dato praticamente invariato. E in questo momento gli unici che possono dire la crisi è finita sono i gruppi bancari. Oggi Credit Suisse ha chiuso il terzo trimestre con un utile pari a 1,5 miliardi di euro, contro una perdita praticamente di 700 milioni un anno prima. È un risultato superiore alle stime di qualunque analista, a conferma che appunto il settore bancario, prima banche d'affari ma non solo, prima la crisi l'ha generata ed è stato anche però il primo a uscirne, anzi forse l'unico a dire il vero fino adesso ad uscirne. Istat, calano parecchio le vendite nel mese di agosto, meno 3% e meno 2,5% rispetto all'agosto del 2008. Attenzione a dire agosto è un mese festivo, ma il raffronto si fa sull'agosto di un anno prima, quindi sempre agosto è meno 2,9% rispetto a un anno prima, e anche la grande distribuzione soffre, non solo i piccoli esercizi commerciali, meno 2,5% le vendite della grande distribuzione rispetto all'agosto del 2008. Buona notizia invece sul fronte dell'export: a settembre forte rimbalzo delle nostre esportazioni, quelle fuori dall'Unione Europea, più 17,5% rispetto al mese di agosto. Siamo ancora in calo del 15% però rispetto al settembre del 2008. Comunque, insomma, rimbalzo netto a settembre perlomeno rispetto al mese precedente. Ha recuperato i mezzi di trasporto più 20%. E la farmaceutica più 20, la meccanica meno 5%, male i mobili meno 20% e l'abbigliamento e le calzature meno 25% quanto a export fuori dall'Europa. E allora, volete sapere che cosa aveva detto il ministro Tremonti sugli economisti? Sì, noi adesso dobbiamo parlare dell'IRAP, però vedo un'altra agenzia che cita il passaggio, adesso lo leggo assieme a voi. Nuovi problemi sono all'orizzonte, ha appena affermato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, citando come conseguenza della crisi la necessità di uscire dalle misure eccezionali di sostegno all'economia, il rientro da tendenze alla lunga insostenibili dei debiti pubblici, e occorre anche, ha detto Draghi, disegnare nuove regole per il settore finanziario. Una delle più gravi eredità che la crisi ci lascia è quella di contenere il problema dell'azzardo morale, moral hazard, come dicono gli inglesi, quindi la capacità di assumersi rischio assolutamente sconsiderata, visto quello che è successo e quello che hanno fatto le grandi banche d'affari di tutto il mondo, a partire da quelle americane. E poi sofferenza del mercato del lavoro, occorre per l'Italia aumentare un potenziale di crescita che rischia di essere durevolmente ridotto dagli effetti della crisi. E poi ha difeso appunto gli economisti, un bilancio largamente positivo per la capacità che hanno avuto di analizzare la crisi, di capirne come alcuni medici, di capirne le origini e anche di dare delle ricette per curare la malattia. Ancora praticamente ha citato anche Keynes, sto leggendo in diretta assieme a voi, ricordando come grande economista non prevede la crisi del 29, ma nessuno ha mai dubitato del merito del suo lavoro. La risposta più politica è quella appunto sugli economisti, dicendo: questa è la risposta a chi sogna pogrom di economisti, a chi ha aperto una caccia al colpevole. Allora sentiamo il ministro Tremonti di agosto, se non ricordo male, a fine agosto era al meeting dell'amicizia di Comunione e Liberazione a Rimini. Questo è il giudizio sugli economisti. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausta stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Va bene, parlammo a lungo di questo attacco, di questa critica del ministro Monti agli economisti. Alcuni di voi ci fecero notare che anche i politici non dicono mai scuse, non ammettono mai di aver sbagliato. Allora suscitammo un po' di polemica tra gli ascoltatori dicendo: è vero, però è anche vero che i politici sono eletti, quindi comunque rispondono al corpo elettorale anche dei loro errori, o così dovrebbe essere in generale, mentre altri soggetti, diciamo, non rispondono. Sicuramente, diciamo, non rischiano il posto necessariamente sulle previsioni sull'azione politica. Comunque torneremo su Draghi, perché vedo che sta continuando a parlare il governatore della Banca d'Italia. I costi della crisi li affrontiamo tra un paio di minuti con Intesa San Paolo e con il rapporto diffuso oggi assieme a Prometeia. Prima notizia d'apertura: l'annuncio, abbastanza sorpresa anche se un po' era nell'aria, da parte del Presidente del Consiglio: stiamo studiando il taglio dell'IRAP fino ad arrivare alla sua soppressione. L'IRAP, di ESIRAP, vi fu la manifestazione anni fa, proprio organizzata dall'allora Casa della Libertà all'opposizione. Insomma, introdotta nel 1998 da Vincenzo Visco, sostituì 7 tasse preesistenti. Si applica a chi svolge attività imprenditoriali, quindi alle imprese, vale circa 38 miliardi di euro l'anno di gettito, per 2/3 la pagano le aziende private, un altro terzo è pagato da aziende pubbliche. I proventi, lo ricordo, vengono incassati dalle regioni, utilizzati per finanziare in larga parte la sanità. L'aliquota base del 4,25% e le regioni possono alzarlo o abbassarlo dell'1%. Dino Pesole in collegamento con noi da Roma, giornalista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, proposta del Presidente del Consiglio, anzi in un messaggio letto dal sottosegretario Gianni Letta all'Assemblea della Confederazione Nazionale Artigiani. Tu hai capito come arriverà o come potrebbe arrivare questo taglio dell'IRAP fino alla sua soppressione? Per ora si tratta di un annuncio che peraltro non è nemmeno una sorpresa, poiché c'è già nel programma di governo della Casa delle Libertà, dove c'è scritto esattamente, accanto appunto alle altre misure, accanto all'eliminazione dell'ICI sulla prima casa, quoziente familiare, progressiva diminuzione della pressione fiscale sotto il 40%, c'è scritto appunto progressiva abolizione dell'IRAP. Allora, come si fa e con quali soldi soprattutto? Intanto dobbiamo dire che l'IRAP, appunto come tu dicevi poc'anzi, istituita 10 anni fa, è stata in questi 10 anni sottoposta a numerosi ritocchi, ecco, chiamiamoli ritocchi perché non c'è stata una revisione sostanziale dell'imposta. Però intanto c'è stato, diciamo, l'effetto del taglio del cuneo fiscale, c'è stata l'introduzione anche della possibilità di dedurre dall'IRES il 10% dell'imposta pagata, e questa è stata una innovazione importante, poiché uno dei limiti di questa imposta è che non è deducibile. Poiché pendeva una sentenza della Corte Costituzionale, il governo Berlusconi ha introdotto questo primo parziale limite di deducibilità, e poi è stata ridotta, questo dal governo Prodi, l'aliquota base dal 4,25 al 3,9. Quindi sia da destra che da sinistra si è riconosciuto che comunque un qualche ritocco all'imposta deve essere fatto. Allora, adesso come si fa? Ovviamente non si può abolire l'imposta, perché abolire l'imposta, l'hai detto tu poc'anzi, vuol dire trovare un gettito sostitutivo di 38 miliardi. Impossibile, impossibile da farsi. Quindi quello che si può fare adesso è ritoccare ulteriormente, se si può, l'aliquota, e poi introdurre ulteriori elementi di deducibilità, ad esempio. Sì, però Dino, io capisco tutto, ma nel momento in cui abbiamo un debito che è tornato a crescere, non per colpa nostra, c'è stata una crisi mondiale, però l'effetto è che il nostro debito viaggia sul 115% di nuovo, previsione di 120, il deficit quest'anno, vabbè, ce l'hanno anche gli altri paesi come il nostro, se non peggio, però l'anno prossimo bisognerà tornare assolutamente a rimettere in ordine i conti pubblici. Io capisco tutto, si può, è come la coperta, no? Puoi levare da una parte, ma alla fine nelle casse dello Stato più o meno 38 miliardi di euro devono entrare, magari risparmi qualcosa, ne fai entrare 37, insomma. No, che poi sì, sono soldi delle regioni, neanche dello Stato. Esatto, e questo è il punto fondamentale che ha ostacolato finora ogni ipotesi di sostanziale modifica di questa imposta, perché appunto, avendo sostituito i contributi sanitari, la tassa sulla salute, l'ILOR e tutte le imposte precedenti, e adesso il maggiore è il tributo che finanzia le regioni, e quindi la faccenda è complicata, anche perché poi si ragiona in termini di futuro federalismo fiscale, quindi è complessa. Io penso che Berlusconi abbia in testa una graduale ritocco, diciamo, di alcuni elementi che contribuiscono alla base imponibile dell'IRAP, ad esempio. Credo che stiano anche pensando a un'ulteriore diminuzione della componente costo del lavoro, ma credo che obiettivamente, per i vincoli cui tu facevi poc'anzi riferimento, non credo che nell'immediato si possa fare molto di più. Sicuramente non si può abolire l'imposta tout court, sarebbe comunque devastante per i conti pubblici. Volevo dire, poi certo, da questo punto di vista bisogna poi scindere l'aspetto, come dire, politico da quello della fattibilità economica. Qui bisognerebbe sentire il ministro Tremonti, perché ovviamente questo annuncio di Berlusconi è stato rivolto a una platea sensibile, gli artigiani, certo, e quindi ha anche un impatto, come dire. Ecco, va detto che per ora, quanto a reazioni, l'annuncio è di questa mattina, delle 11:30 per la precisione. Le reazioni finora arrivate sono quelle del ministro Welfare Sacconi, che ha detto il taglio dell'IRAP rientra nel programma elettorale. Il leader del segretario del PD Franceschini ha detto no, il solito effetto annuncio. Visco, il padre dell'IRAP, ha detto, l'ha definita un'imposta equilibrata. Se vogliamo fare bancarotta continuiamo a dire che va eliminata. Se invece vi fossero risorse, ha aggiunto Visco, la priorità sarebbe la riduzione dell'IRPEF sul lavoro dipendente. La pensa così anche Epifani, segretario generale della CGIL, che dice prima eliminare, abbassare le tasse ai pensionati e poi pensare all'IRAP, così come Raffaele Bonanni, leader della CISL, ha detto meno tasse per tutti, non solo per le imprese. La Confindustria poco fa, 20 minuti fa, ha diffuso un apprezzamento per le affermazioni del Presidente del Consiglio, ha detto condividiamo, si legge in una nota, che l'IRAP vada ridotta e in prospettiva eliminata, questa è la richiesta di sempre da parte di Confindustria, particolarmente urgente e importante in questo momento di difficoltà per le nostre imprese, ci auguriamo che si passi rapidamente dalle parole ai fatti, siamo pronti a avviare un confronto con il governo e le altre parti sociali per individuare le modalità di attuazione di questa misura. Ultima notizia, quella dell'agenzia di rating Fitch, una delle tre agenzie che danno i voti al nostro debito come altri debiti al mondo, che ha detto attenzione, l'ipotesi di tagliare l'IRAP rappresenta un cambiamento di rotta che ci sorprende rispetto alla direzione tenuta fino adesso, anche perché è un'imposta il cui gettito è importante per il governo e quindi per il debito italiano. Staremo a vedere, grazie, e anche di che ritocchi si tratterà. Grazie a Dino Pesole. Adesso il meteo, la pubblicità, poi raccontiamo la fotografia scattata da Prometeia e Banca Intesa sul fatturato delle imprese italiane, quanto tempo ci metteranno a tornare ai livelli del 2007, e commentiamo anche la borsa. Vi dico come ha chiuso: meno 1,4% Milano, che è decisamente a questo punto la peggiore d'Europa, perché Parigi perde l'1,2%, Francoforte l'1%, Londra perso lo 0,80%, l'America resta positiva di mezzo punto percentuale. In assoluto il titolo che ha perso di più è Fondiari Assai, meno 4,6%, con Impregilo meno 3,4%, il migliore Finmeccanica più 1%. Al di là dei titoli di maggiore capitalizzazione, Safilo è il peggiore di tutti, meno 6,6%, Montefibre il migliore di tutti, anzi però sul risparmio, Cell Therapeutics il migliore di tutti, più 4,7%. Sette 35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco arriveremo anche alla borsa, lo dico a chi ci sta scrivendo al 349-238-6666. Ripeto, anzi, 1,5% adesso il calo di Milano nel finale, con pochissimi titoli positivi: Finmeccanica più 1, Snam più 0,6%, Fondiaria Assai meno 4,7%, Impregilo meno 3,6%. Ma vorrei concludere questa prima parte legata al mondo delle imprese, perché non c'è solo la proposta, vedremo poi quanto concreta e in che cosa si concretizzerà, del Presidente del Consiglio di ridurre, tagliare l'IRAP fino a sopprimerla. C'è anche il rapporto Prometeia Banca Intesa, che come ogni anno fotografa l'andamento e il fatturato delle nostre imprese. Settantaseiesimo rapporto analisi dei settori industriali, appunto, di Intesa San Paolo Prometeia. Siamo in collegamento con Fabrizio Guelpa, responsabile banca e industria dell'ufficio studi di Intesa San Paolo. Buonasera, dottor Guelpa. Buonasera a lei, dottor Barisoni. Allora, prima domanda: voi avete fatto un calcolo che alla fine il costo di questa crisi per il sistema economico italiano, per le manifatturiere, sarà di 200 miliardi di euro. Sì, il calcolo è abbastanza semplice. Attualmente, diciamo nel 2008, ultimo storico, il fatturato dell'industria italiana è prossimo a 1000 miliardi di euro. Noi stimiamo per il 2009 una contrazione del fatturato del 21% in termini nominali, quindi vuol dire che il livello scenderà di 200 miliardi di euro. Per recuperare questo livello ci vorranno anni e anni. Non siamo molto distanti da una cifra prossima al prossimo decennio, perché vediamo una crescita, il nostro rapporto riguarda il 2010-2011, una crescita nel breve termine attorno all'1,5% l'anno, quindi è molto modesta, però è difficile immaginare che negli anni successivi si possa accelerare, quindi recupereremo un volume industriale, come lo ricordavamo nel 2008, molto molto in là nel tempo. Allora, se ho ben capito, lei dice, visto che il fatturato del 2008 è stato più o meno di 1000 miliardi di euro dell'industria italiana tutta assieme, e visto che quest'anno è previsto un calo del fatturato intorno al 20%, il calcolo è semplice: si arriverà a 800 miliardi, quindi 200 miliardi di euro di fatturato in meno, il che significa praticamente 10 anni di manovre finanziarie, anche un po' di più. Questo per dare il senso delle proporzioni. Alla faccia di chi poi diceva: ma questa crisi non colpirà l'Italia o la colpirà molto poco. Sulla parte manifatturiera economica, purtroppo, non è così. Lei dice ci vorranno decenni, addirittura un decennio, perché voi calcolate, se ho ben visto, un fatturato che al netto dell'inflazione è del 16% in meno. È una crescita. Se ragioniamo in termini al netto dell'inflazione, che per l'attività industriale è molto oscillante quest'anno, cioè noi siamo abituati come consumatori a immaginare l'inflazione come qualcosa di consegno più. In realtà quest'anno il segno dell'inflazione per l'industria è un segno meno, cioè una inflazione negativa. I prezzi sono calati. Sono calati del 5%. Mm-hmm. Quindi abbiamo un fatturato, insomma soldi che entrano in aziende, che va molto peggio rispetto alla quantità di prodotti fisici che escono. E voi stimate invece una crescita per il 2010-2011, non del PIL nazionale, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, stiamo parlando solo del fatturato, solo della crescita fatturato dell'1,6% dell'industria italiana. Dell'industria italiana 1,6%, quindi leggermente più accelerato rispetto alle crescite del PIL che vengono fornite anche agli organismi internazionali, però comunque dopo un crollo delle dimensioni che abbiamo ricordato è diciamo una magra consolazione, pressoché tutti i settori continueranno a avere alla fine di questo nostro periodo di previsione, che è il 2011, livelli produttivi molto distanti da quelli del periodo pre-recessione. Dando a dare un'idea, se noi dividiamo l'industria in una ventina di settori, quello che noi facciamo in questo rapporto, alla fine del 2011 ce ne saranno solo tre che avranno livelli produttivi pre-recessione, in particolare sono il largo consumo, quindi i prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati, profumi, roba per lavare sé e la casa, eccetera, la farmaceutica e gli alimentari, quindi prodotti fondamentalissimi per la vita delle persone. Tutto il resto rimarrà ancora su livelli molto molto depressi, quindi un eccesso nei livelli così depressi che determinano un forte eccesso di capacità. Se in un anno possiamo ancora sopportare una contrazione del 15-20% di attività, evidentemente non si può mantenere a oltranza e sarà necessario trovare il sistema di ridurre questa capacità in eccesso. Un problema italiano, d'altronde un problema un po' in tutto il mondo. Beh, che trascina anche tutte queste acquisizioni che stanno partendo. Andiamo con ordine però, dottor Guerra, lei dice allora quest'anno deflazionato il fatturato delle imprese italiane sarà crollato del 16%. Le vostre previsioni sul 2010-2011 sono che a fine 2011 solo tre settori, quelli di beni quasi di prima necessità, o anzi di prima necessità in alcuni casi, quindi farmaceutico, alimentare e largo consumo, che vuol dire insomma tutto insieme. Roba di pulizia, per intendere. Esatto, i prodotti per la casa si chiamerebbero. Sì. Solo questi tre settori torneranno ai livelli di attività, ai livelli del 2008, del pre-crisi. 2007, l'anno precedente alla recessione, sì. Nel 2007, se la crescita dell'1,6%... Quanto ci metteremo secondo lei a tornare complessivamente come fatturato complessivo dell'industria ai livelli del 2007? E ci vorranno almeno 8-9 anni a questi ritmi. Allora, siccome 8-9 anni è un periodo di tempo in cui cascano le braccia, noi per esorcizzare ogni tanto quando... Mi mette il gufo, dico bene? Eccolo qua, lo stavo aspettando. Vabbè, vi giuro che non ci siamo messi d'accordo, evidentemente ormai no, sono gli ospiti stessi che temono. Sono gli ospiti che lo aspettano. Beh, quando uscite con previsioni del genere è anche difficile mettere altri animali della nostra fattoria. Vabbè, al di là del gufo, purtroppo è chiaro, la matematica è impietosa da questo punto di vista. Se tu perdi il 16% e poi in un anno e poi fai più 1,6 all'anno, a spanne ci metti 7-8 anni a tornare ai livelli del 2007. Speriamo che invece poi la crescita sia più forte nel futuro. Una domanda però gliela devo fare, anche perché la stanno chiedendo gli ascoltatori, ed è: in tutto questo, visto che lei si occupa di banche e industria, una differenza, mettiamolo così, una differenza virtuosa potrebbe essere apportata dal mondo bancario? Cioè potremmo avere tassi di crescita migliori di quelli che voi prevedete se il credito bancario fosse elargito in maniera ancora più consistente, se le banche diciamo supportassero ancora di più le imprese sane ma in difficoltà? Diciamo una delle caratteristiche del nostro paese rispetto ad altri europei, ma anche direi a livello di mondo, è che c'è stata un'enorme cooperazione tra gli imprenditori e le banche. Dopo primi mesi con cui ci si guardava un po' di cagnesco cercando di trovare chi era il colpevole, si è arrivata tutta una serie di azioni comuni, banca e singola banca, associazioni industriali, ma anche il complesso delle associazioni industriali con il complesso delle banche. Mi avviso al raccordo ABI Confindustria di agosto e anche tante iniziative che sono state portate avanti, quindi in qualche modo con queste iniziative si è un po' tamponata, si è tamponata la falla, perché con le moratorie sui mutui, con gli strumenti che sono stati forniti per compensare le aziende per i mancati pagamenti che gli vengono dai clienti, che è stato uno dei fattori che ha accelerato la crisi, con le proposte, che sono tutti che devono andare a regime, di aiutare le imprese a ricapitalizzare, insomma in qualche modo la falla è stata parzialmente riempita, tant'è che bisogna ancora ricordarlo, il credito continua a crescere. Noi gli ultimi dati che abbiamo sono di luglio, per imprese non finanziarie il credito cresce dell'1%, come avevamo detto, un andamento per quello che riguarda l'industria fa meno 20, quindi c'è un divario enorme. Non bisogna nasconderci però che ci saranno probabilmente dei problemi nei prossimi mesi, quando ci sarà da guardare i conti delle aziende del 2009, che chiaramente saranno molto molto negativi. E questo rimanda alla questione su cui dibatto ormai da settimane di Basilea 2, dei rating. Ecco, la normativa corrente prevede che le banche possano produrre dei rating utilizzando sia i dati storici, ma anche inserendo dell'informazione ulteriore che hanno sulle prospettive delle aziende, sulle prospettive dei settori di appartenenza. Quindi se le banche, e sono ragionamenti che si stanno facendo nel sistema, riescono a inserire questa informazione, i rating saranno meno negativi di quello che sarebbero altrimenti, quindi c'è la possibilità di avere una dinamica del credito che continua a essere funzionale allo sviluppo delle imprese. Sì, lei sa che insomma i segnali che noi riceviamo dal mondo delle imprese piccole e artigiane non sono esattamente così morbidi o così rassicuranti, molti parlano di restrizione del credito, però insomma sì, però guardi, dobbiamo anche guardare un po' ai numeri veri, cioè di fronte a una crisi di questo genere sicuramente c'è tantissimi imprenditori che sono in difficoltà, non ce lo possiamo nascondere, però quando andiamo a vedere delle rilevazioni sono fatte da più centri pubblici, privati, di quanti sono i soggetti che veramente hanno avuto la porta in faccia di fronte a una richiesta di credito, sono un numero relativamente basso. L'ISAE, ad esempio, quindi facendo riferimento a una fonte ufficiale, stima che le imprese che hanno avuto un no sono il 6%. Questi sono dati a giugno, sì, un anno prima diciamo il tasso tipico è attorno al 2-2,5%. Sì, non vorrei riaprire un fronte che ormai teniamo aperto da mesi, la Banca d'Italia che vi ha invitato le banche a non restringere il credito, i sondaggi compiuti tra imprenditori nel Bresciano, ma non solo, che denunciavano invece restrizioni del credito continuo. Io adesso, obiettivamente, noi vi abbiamo invitato giustamente per parlare del rapporto del futuro e a quello ci atteniamo, anche perché ormai questa del rapporto banca-impresa sta diventando una querela che mi ricorda molto quella dei prezzi della benzina sulla base dei prezzi del petrolio, cioè da sempre c'è una certa sensazione. I petrolieri dicono che le cose non vanno così. Comunque, al di là di questo, molto importante quello che ci avete raccontato, perché sicuramente le cifre parlano da sole, e lo ripeto, lo dico anche a chi scrive: un conto è dire che la ripresa arriverà nel 2010 e che vi sarà anche nel 2011, e un conto è capire quando si tornerà ai livelli pre-crisi. Le due cose sono molto diverse. Tu avrai, o si potrà avere, un più 1,5, forse magari un più 1,6, un più 1,8% l'anno prossimo nel fatturato industriale, ma se sei sceso da 100 a 80, certamente, e guadagni un punto e mezzo all'anno, non bisogna essere un genio della matematica per capire che ci metti 7-8 anni a tornare al 2007. Grazie al responsabile banche e industria dell'ufficio studi di Intesa San Paolo, Fabrizio Guelpa. Grazie a voi. E vabbè, nonostante il gufo, poi bisogna anche restare su questi dati. La borsa dunque, e ne parliamo come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, oggi nella persona di Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Allora, deboli tutte le borse europee, Milano tra le peggiori, 1,5% percentuale. Oggi male soprattutto il comparto bancario assicurativo, e meno male, in alcuni casi anche positivo, il comparto energetico. Da noi, per esempio, oltre a Finmeccanica che ha guadagnato l'1%, c'è Snam più 0,6, Eterna più 0,1%. Ancora tra i titoli positivi le CIR, mezzo punto percentuale di rialzo, e le Campari più 0,15%. Il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione è Fondiaria SAI, meno 4,7%. Manca praticamente 24 ore, no? Siamo all'indomani del piano triennale, ma c'è ancora molta così divisione tra gli osservatori e gli analisti. Sì, infatti comunque meno 4,7% indica che il mercato è rimasto assolutamente deluso perché in verità non ci sono stati annunci sorpresa, come invece magari si era diffusa la convinzione nei giorni precedenti. Il piano infatti è stato molto cauto nel fornire le indicazioni sugli anni a venire, 2009-2011, e peraltro anche l'andamento del piano di dividendi, verranno distribuite 0,7 e 0,8 euro per azione nei prossimi anni, è stato considerato un po' deludente. C'è chi si attendeva che infatti la società fosse più generosa nei confronti degli azionisti, tutti i motivi che hanno appunto spinto così in basso il titolo. Ancora su Fiat, volete sapere, Fiat oggi debole in altalena come vari titoli, perso l'1,3%, è comunque sotto gli 11 euro per azione. Oltre a Fondiaria c'è Impregilo meno 3,6%, ma qui vedo un po' di limature ma non novità, dimmi solo sì o no. Sì, esatto. Ecco, grazie. E poi i bancari, Intesa meno 3,20, bancari assicurativi, Unipol meno 2,6, Unicredit meno 2,5, Mediolanum meno 2,3, Monte dei Paschi pure, Banco Popolare meno 2,2, e praticamente chiudiamo con Ubibanca meno 1,80 come Mediobanca, Popolare di Milano meno 1,6%, Generali meno 1,2%. Il settore. Sì, guarda, come hai già detto tu, praticamente si tratta di un movimento di settore, peraltro non solo a Milano ma in tutta Europa. Assicurazioni e banche sono state infatti tra quelle più vendute anche su tutte le piazze del vecchio continente. D'altra parte ricordiamo che nei mesi scorsi e nelle ultime settimane erano proprio le azioni che invece erano salite con maggiore convinzione. Ancora al di là del settore bancario, Telecom Italia, oggi giornata di altalena, meno 1,8%, a parte le solite voci su così un eventuale cambio ai vertici, ma oggi non si è visto molto. No, infatti in questo caso si tratta di prese di beneficio, è vero che è andata in controtendenza rispetto al settore che invece in Europa ha retto bene, anzi il sottoindice Stock 600 è salito addirittura dello 0,9%, d'altra parte le azioni fino a qualche settimana fa ricordiamo che si attestavano attorno a 1 euro, mentre adesso sono scambiate a 1,18 centesimi di euro, quindi avevano corso già abbastanza. Ovviamente c'è l'attesa per quello che succederà entro il 28, data entro la quale i soci che fanno parte del patto di Telco, la scatola che controlla il 24,5% del capitale, possono eventualmente dare disdetta, anche se pare che si vada, che non ci saranno sorprese e ognuno continuerà a aderire al patto. Ancora, l'automatica di nuovo negativa, meno 2,3%, Estimac Electronics continua a soffrire meno 2,5%, tra i peggiori in assoluto abbiamo le Tiscali, meno 17,6%, adesso si può dire questa variazione oppure ancora non è confrontabile? Guarda, è ancora in corso l'aumento di capitale, quindi va detto che le azioni si sono assolutamente sgonfiate. La scorsa settimana avevano raggiunto un massimo a 1,82 euro, adesso stanno a 0,72 euro, hanno perso il 17% anche oggi. D'altra parte, considerando l'andamento dei diritti che sono tuttora in contrattazione, le azioni dovrebbero valere meno, cioè i diritti indicano che le azioni dovrebbero valere circa 0,17 euro, che è un livello ben inferiore agli 0,72 euro appunto al quale hanno chiuso oggi. In una battuta, Cell Therapeutics più 4,7%, un titolo che ha corso tantissimo da inizio anno. Novità? In questo caso, come hai detto tu, è un titolo piccolo, che bastano poche notizie, anche poco rilevanti, che si muove al rialzo o al ribasso. Di sicuro nell'ultimo periodo ha oscillato molto più che rispetto a altri titoli. Grazie, grazie da Donna Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. E 9 minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, prima di passare agli investimenti in Italia del gruppo assicurativo francese Groupama, siamo in grado di farvi ascoltare alcuni dei passaggi dell'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, quelli con cui abbiamo aperto praticamente, le agenzie avevano appena battuto i flash, quell'intervento che ha tenuto poco fa alla riunione degli economisti, e ha detto in sostanza il governatore: attenzione, ci sono nuovi problemi all'orizzonte. Nuovi problemi sono all'orizzonte. Come uscire dalle misure eccezionali di sostegno alle economie di molti paesi? Come rientrare da tendenze alla lunga insostenibili nei debiti pubblici? Come disegnare nuove regole per il settore finanziario e contenere il problema dell'azzardo morale, una delle più gravi e pesanti eredità che questa crisi ci ha lasciato? Come alleviare le sofferenze del mercato del lavoro? Come aumentare un potenziale di crescita che rischia di essere durevolmente ridotto dagli effetti della crisi? Di fronte a questi problemi, la corretta analisi economica a cui ho fatto cenno è più che mai necessaria per produrre quelle proposte concrete, quantificate, motivate, che sono alla base di una politica economica efficace. E poi l'intervento a difesa degli economisti per la loro capacità di avere capito la natura della crisi finanziaria e aver determinato anche la dimensione di questa crisi, e quindi anche aver aiutato alle risposte date a questa crisi finanziaria. Questa battuta è quella che probabilmente domani sui giornali molti quotidiani vedranno come risposta a un mese e mezzo di distanza al ministro Tremonti. Ricordate che a fine agosto, l'abbiamo fatto sentire nella prima ora del programma, Giulio Tremonti al meeting di Rimini paragonò gli economisti ai maghi, dicendo: sbagliano sempre gli altri, loro non sbagliano mai, non si scusano mai. Non vi faccio risentire l'intera dichiarazione di Tremonti, l'abbiamo sentita un'ora fa, sentiamo invece quello che ha detto poco fa il governatore della Banca d'Italia sugli economisti e sul ruolo degli economisti. La crisi che il mondo sta vivendo ha prodotto danni ingenti, da prima al funzionamento del sistema finanziario, poi alla capacità produttiva, ai redditi e al benessere dei cittadini. Rischia di farne anche alla cultura in campo economico. Si è aperta una caccia al colpevole, si sognano pogrom di economisti. Della disciplina economica si è negata sia la valenza scientifica sia l'utilità sociale. All'interno di una professione sempre pronta all'autocritica crescono le divisioni. Credo che questo dibattito debba essere fertile quanto ora è aspro. Così come la bravura di un medico si giudica in ultima analisi dalla sua capacità di curare una malattia, anche quando non sia stato in grado di anticiparne il manifestarsi, così la professione economica deve essere in primo luogo valutata per le risposte che ha saputo finora dare alla crisi. Da questo punto di vista, credo che il bilancio sia largamente positivo. Insomma, avete sentito, si sognano pogrom di economisti e si è aperta una caccia al colpevole. Non può essere più chiara la risposta, sebbene in diretta, al ministro dell'economia, che fu il primo a attaccare gli economisti appunto a fine agosto. Ancora, insomma, oggi il ministro Monti avrà di che pensare, perché tra la dichiarazione di Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, e la proposta arrivata dal Presidente del Consiglio Berlusconi di tagliare l'IRAP fino a sopprimerla, sono tutti elementi che lo investono in prima persona. Comunque, parliamo tra un attimo anche di piccole imprese che domani si riuniscono nella due giorni di assemblea annuale, e anche dei confidi, quindi delle forme di credito alle piccole imprese. Prima di tutto però vorrei coprire e soprattutto capire quali saranno gli investimenti di un gruppo francese che è attivo da molti anni in Italia, mi riferisco a Groupama Assicurazioni, che oggi ha annunciato la fusione tra Groupama Italia e Nuova Tirrenia, ma ha annunciato anche un piano di investimenti per i prossimi 3 anni in Italia. all'amministratore delegato di Groupama Assicurazioni. Buonasera innanzitutto Pierre Lefebvre. Buonasera. Allora, voi, compagnia assicurativa francese presente in Italia da oltre 100 anni, e avete in Italia, se ho ben capito, un fatturato di 1.400.000.000, 850 agenzie e oltre 800 dipendenti per 1.700.000 clienti. Quali sono i vostri, esattamente, sì. Quali sono i vostri obiettivi nei prossimi 3 anni? Oggi abbiamo annunciato la fusione tra le nostre 3 compagnie, e quindi diventiamo un'unica compagnia che si chiamerà Groupama Assicurazioni. Abbiamo anche presentato il nostro piano industriale per i tre prossimi anni, che è un piano puntato sulla crescita. Noi vogliamo aumentare la nostra quota di mercato, e con investimenti sulla distribuzione. Abbiamo una rete di distribuzione di alta qualità che vogliamo estendere con la creazione di nuovi punti di vendita, 25 almeno ogni anno. L'altro aspetto, sulla distribuzione, che vogliamo aumentare il nostro coinvolgimento nella banca assicurazioni con banche regionali. Abbiamo già alcuni accordi che funzionano molto bene, e siamo in attesa di altri accordi per aumentare la nostra attività in questo segmento del mercato. Noi siamo un assicuratore ancora molto focalizzato sull'auto, e il mercato italiano ha una potenzialità molto importante di crescita su altri rami, su naturalmente l'assicurazione dell'abitazione, l'assicurazione delle piccole e medie imprese, e questo è per noi, anche per i nostri agenti, una fonte di crescita per il futuro. Dottor Lefebvre, da come lei sta spiegando gli investimenti che volete raggiungere nei prossimi 3 anni, quindi diventare uno dei primi 10 gruppi assicurativi italiani, mi sembra di capire che riteniate che, nonostante le difficoltà dovute alla crisi finanziaria del settore assicurativo, il settore assicurativo non solo si riprenderà, ma avrà anche ci sono anche margini per volumi più ampi complessivamente? Sì, ma ci sono due aspetti diversi. La crisi finanziaria, per quanto ci riguarda, è finita. Tutte le svalutazioni sono state contabilizzate in 2008, in 2009 ci sono rivalutazioni su investimenti, quindi non abbiamo più nessuna minaccia della crisi finanziaria, per quanto ci riguarda, naturalmente. Per quanto riguarda la crisi economica, naturalmente l'assicurazione è molto legata allo sviluppo economico, e quindi in periodo di crisi c'è meno crescita del mercato. C'è anche il ciclo del settore assicurativo. In tutti i paesi il settore assicurativo è ciclico, e abbiamo avuto un ciclo di concorrenza molto intensa sugli ultimi anni, con un peggioramento dei risultati, e già in 2009 c'è una reazione. Ci sono per esempio aumenti tariffari che le compagnie hanno introdotto, quindi speriamo e pensiamo che sull'aspetto del ciclo assicurativo anche il 2010 sarà in miglioramento confronto al 2009. Un'ultima domanda che riguarda invece la vostra partecipazione in Mediobanc. Voi, come Groupama, siete un grande azionista di Mediobanc, avete il 4,9%, è una quota così che potrebbe essere ceduta magari anche per fare cassa? Assolutamente no. Ancora confermato oggi che non abbiamo nessun piano di vendere nessun parte della nostra partecipazione. Abbiamo appena rinnovato il patto d'azionista per oltre 2 anni, quindi non ci sono nessun piano di cessione di una parte o della partecipazione. Chiarissimo, quindi anche sulla partecipazione in Mediobanc. Grazie al amministratore delegato di Groupama, Pierre Lefebvre. Grazie a lei. Quindi in questo periodo, come già abbiamo visto altre volte, c'è chi in alcuni settori continua a investire. Vedo molti messaggi sulle banche che sono tornate a fare utili. Sì, oggi è stato il caso di Credit Suisse, utili a 1,5 miliardi di euro nel terzo trimestre. L'abbiamo appena sentito, per il mondo finanziario e assicurativo la crisi è già finita. 18:20, ultima parte di Focus Economia. E allora, se per i gruppi assicurativi e i gruppi bancari, a giudicare dalle trimestrali, la crisi è finanziaria definitivamente alle spalle, così non si può dire per le imprese manifatturiere e artigiane italiane. Presidente di Federconfidi, Francesco Bellotti, buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Domani vi sarà la due giorni organizzata dalla piccola industria e Confindustria a Mantova per parlare dei costi delle piccole e medie imprese, in primo luogo energia, fisco e burocrazia. Ascolteremo domani anche in questo programma il presidente della piccola industria e Confindustria, Giuseppe Morandini. Lei è stato, Bellotti, presidente nel passato della piccola industria, attualmente appunto presiede la federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei FIDI. Cioè, in sostanza stiamo parlando di 88 confidi che operano su tutto il territorio nazionale e associano circa 35.000 piccole e medie imprese di soggetto. Siamo stati un po' più bravi, siamo 58, perché nel frattempo, vedendo la crescita un valore, ci siamo aggregati per dare migliori servizi ai nostri associati. Però questa è la realtà della forza che noi rappresentiamo. E in effetti anche domani si parlerà anche di aggregazioni e consolidamento. Comunque, oggi abbiamo avuto un rapporto Intesa San Paolo Prometeia che ha detto meno 17% nel 2009 il fatturato dell'industria, 2010-2011 più 1,6 ogni anno. Di questo passo ci vogliono 8 anni almeno. E poi il governatore Draghi, che poco fa ha detto ci sono nuovi problemi all'orizzonte sul fronte della crisi. Allora, prima una fotografia anche sulla base della sua esperienza personale e poi cosa stanno facendo i confidi, che sono l'altra grande forma di finanziamento oltre a quello bancario per le piccole e piccolissime imprese soprattutto. Presidente. Guardi, da un punto di vista dell'andamento generale industriale, tutti gli elementi di preoccupazione che vengono ricordati quasi quotidianamente sono perfettamente condivisibili: il calo dei fatturati, la preoccupazione del recupero dei livelli produttivi, 2008 che avverrà non si sa bene in quanti lustri e che deve vedere le imprese italiane che hanno saputo ammodernare, rinnovare i loro processi, però a fronte di un consistente indebitamento, dover far fronte a rate di mutui e piani di ammortamento senza averne più la produzione. Quindi bisogna avere la capacità di sostenere con consapevolezza per tutto questo lungo periodo il sistema produttivo italiano, evitare fughe in avanti pensando che fuori dal mondo produttivo italiano si possono trovare soluzioni più vantaggiose, forse di breve periodo, ma la crisi è globale, mondiale. Non pensare alla salvaguardia delle imprese italiane, delle piccole imprese italiane e con esse al valore della coesione sociale che è data dalla salvaguardia dell'occupazione sembrerebbe una miopia non concepibile con il voler mantenere questo paese nelle possibilità di superamento di questa crisi. Ancora i confidi. Allora, sappiamo che non si possono sostituire il mondo bancario, anche per fortuna, ognuno faccia il suo lavoro e abbia il suo ruolo. Però a voi fanno gola i miliardi che i grandi gruppi bancari, penso a Intesa San Paolo e Unicredit, non hanno chiesto come Tremonti Bond? Cioè, c'è un'ipotesi, perché poi non ho più capito a che punto si sia del guado, di girare questi soldi magari al mondo dei confidi per fare in modo che poi vengano rigirati alle piccole e medie imprese che li chiedono? Allora, guardi, come dicevamo prima, il mondo dei confidi, che da anni assicura attraverso una garanzia che dà al sistema bancario un più facile accesso al mondo delle imprese, ai finanziamenti, crescendo si trova di fronte al rispetto della norma che impone al superamento di una certa soglia la trasformazione in intermediario vigilato. Questa trasformazione permette una maggiore operatività, quindi migliori servizi alle imprese, ma impone tutti i costi che derivano da una struttura più complessa. Questa fase di decollo avviene in un momento in cui l'economia è in grave difficoltà e quindi anche i confidi subiscono quelle che sono le insolvenze che caratterizzano la normale gestione in questo periodo straordinario del sistema bancario. In conseguenza di tutto questo si è un indebolimento del patrimonio. Un'operazione di lungimiranza è quella di creare le condizioni affinché si possano, anche per i confini, superare le condizioni dell'attuale difficoltà. Allora, prima, se lei mi concede, di rispondere al tema molto interessante, sì, che lei ha sollevato. Abbiamo due minuti per bellotico. Allora, in un minuto le dico, prima di ipotizzare operazioni di lungo periodo, ci sono operazioni di immediato respiro che possono dare ai confini la possibilità di liberare finanziamenti le imprese. Noi abbiamo oggi il fondo centrale di garanzia che è stato dotato nel periodo 2009-2012 di 1,6 miliardi, quasi tutti spalmati al 2012, quasi che la crisi dovrebbe scoppiare tutta al 2012, chiediamo al governo due cose. Primo, di anticipare a oggi gran parte di quelle risorse. Secondo, di trasformare tutto il fondo con ponderazione zero, cioè con la garanzia di Stato che permette di liberare patrimonio. L'altro, visto che si parla di patrimonio, si è fatto molta attenzione alla stabilità del sistema bancario, ci dovrebbe essere la stessa attenzione per il sistema dei confidi. I Tremonti bond non utilizzati potrebbero in parte essere convertiti in sostegno di patrimonializzazione ai confidi, a condizione che il loro costo di accesso sia compatibile con le dimensioni, certo molto più ridotte, del sistema dei confidi. Allora, è chiaro che voi dite, insomma, il governo ha messo questi soldi per il 2012, quando la crisi ormai, boh, chissà cosa sarà diventata. Che ci troveremo di fronte a dei cadaveri se non siamo in grado oggi di reagire con prontezza. E lo ha fatto, lo aggiungo io, perché come si fa con certi bilanci familiari, sposti le spese più in là, siccome sono voci di uscita, per non aggravare il deficit. Però è chiaro che magari nel 2012 non serviranno più a niente. In una battuta, sì o no, lei, a questo punto lo chiedo all'industriale, vede un leggero, lento miglioramento nel clima economico e della sua attività, sì o no, Bellotti? Io credo, guardi, che con ragionevolezza, quando ci sarà l'arresto della disoccupazione e se si supererà certamente le analisi dei bilanci nel rapporto banca-impresa nella primavera del 2010, forse potremo dire di aver superato il peggior momento di questa crisi. Oggi noi abbiamo tutti i sintomi, le manifestazioni credo che andranno verificate entro la primavera estate 2010. Quindi sintomi sì, manifestazioni no. Grazie al presidente di Federconfidi Francesco Bellotti e da Sebastiano Barisoni è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Il programma torna domani dalle 17 in poi.